FM. E ci siamo, sono le 8:01, squillino le trombe, rullino i tamburi. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Qui a Rock FM la banda è composta per tenervi compagnia fino alle 9 di quest'oggi. Buona la musica che andremo ad ascoltare, tante le stupidate che diremo, come da contratto. E una nuova rubrica, questa del brano della riserva, un pezzo che ci terrà compagnia tutta la settimana, un po' come facevamo con il tormentone musicoterapeutico, no? L'orario giusto mi sembra questo, le 8, dove la seconda tranche di radioascoltatori si sveglia, dove la prima tranche è già entrata in circolazione. Insomma, per affrontare bene la giornata, lo sapete, qui ci giochiamo l'asso della buona musica. E come 79 puntate fa iniziammo Pane, burro e rock and roll sotto la benedizione dei Beatles, anche quest'oggi riprenderei con la nuova stagione sfruttando i Fab Four. E allora, signore e signori, visto che il sole sta arrivando, picchiamocelo tutto in faccia, no? Buona giornata da Pane, burro e rock and roll. Se state con noi, andrà tutto bene. Fatelo entrare nelle vostre teste, vi terrà compagnia tutto il giorno. Anche i Beatles, it's alright, state in una botte di ferro. Here comes the sun, ci terrà compagnia tutta questa prima settimana di ritorno di Pane, burro e rock and roll. Sun, sun, sun, here we come. A me è già entrato in testa, ma perché è tutto il weekend che lo preparo, no? Da vecchio professionista, i brani che vi proponiamo all'interno della diretta come tormentoni, io li testo tutti su di me. Quindi io Here Comes the Sun me la sono sentita 300 volte questo weekend per vedere se funzionava. Funziona, fidatevi di me. Tireremo dritto fino alle 9 del mattino, ma... Guarda qua che pezzo c'ha pronto Spadino, io... Non so, sarà che è la prima puntata. sarà che ci sono tutti i vostri messaggi così affettuosi, che siamo tornati. Ma questa sì che è grande musica, sentite qui. Is this the real life? Is this just fantasy? Senti che falsetto. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Out. E veniamo ai festeggiamenti nati di oggi, lunedì 3 settembre. Non vedevo l'ora che tornasse a fare i compleanni del giorno, Freak. Sì, anch'io sono entusiasta. Beh, vuole sapere guarda, notizie e curiosità su questo 3 settembre. Devo saperlo assolutamente, chi nacque? Guardi, nel 1875, il 3 di settembre, venne al mondo Ferdinand Porsche. Beh, con un cognome così aveva a che fare con le macchine. Naturalmente, fu l'ingegnere automobilistico tedesco che dette vita alla casa omonima Porsche. Sai io con cosa le controbatto? Con un compleanno del 1937 nasceva Carmelo Bene. Il grande Carmelo, perbacco, attore, drammaturgo. Drammaturgo, non drammaturco, come dice qualcuno, italiano. Morirà, ahimè, nel 2002. Una grande perdita per tutto il teatro italiano, che se ne dica. Passiamo al buon rock, 1942. Al Jardin, basso dei Beach Boys. Nel senso di statura o di strumento? Chitarra, basso, diciamo meglio. Lei mi punzecchia. Dei Beach Boys. Venne al mondo. Passiamo a un altro compleanno, un altro chitarrista, questa volta dei Sex Pistols, Steve Jones. Esatto, il 3 settembre del 1955 venne al mondo il chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones. Molto giusto. Salutiamo un collega. Sì, facciamolo. Un conduttore radiofonico italiano. Di successo. Di successo, di grande successo, come noi, sullo stesso livello, piano. 1959. Insomma. Nasce Marco Baldini, attuale collaboratore di Fiorello. Se fosse bisogno una mano, portare il caffè, noi sì, ragazzi, ci siamo. Noi ci siamo. Veniamo Fiorello via Baldini, poco. Messaggio, sì, esatto, ci adattiamo, messaggio per Fiorello e Baldini, insomma, se avessi bisogno. E nel 1967, 1906, Bella e Brava. La Bella e Brava Skin, cantante inglese di origine giamaicana, vide la luce. Già voce degli Scancanensi. E chiudiamo con una bellezza. Con una bellezza spagnola, trapiantata in Italia, Natalia Estrada, nata nel 1972, il 3 di settembre, showgirl a tutto campo, attrice di origine spagnola, ma come ripeto, oramai di casa nostra. Approvo questa ripresa di pane, burro, rock and roll con i compleanni del giorno e in chiusura con la showgirl da contratto. Bravo Freak. La ringrazio, anche lei è andato benissimo. Complimenti, dottor Ariel. Coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. Needs you. touch to put the flame to all our killing shame. And I'll rise like an ember in your name. I know. Il collega Chuck Bird, lo zucchero nel vostro caffè, Jeff Buckley, Everybody Here Wants You, pane, burro e rock and roll, con l'Ariele, Spadino e Fricantoni, 8 e 19 minuti primi, se ci state ascoltando nella diretta mattutina, in diretta fino alle 9, e invece un orario a caso se ci state ascoltando nello streaming di A Radio Rock FM nei programmi in archivio, cioè potrebbero essere le 4 del pomeriggio anche, non lo so, dipende quando state ascoltando. Guardatevi l'orologio voi che state ascoltando la replica e decidete che ore sono. Al 3351007777, voi che ascoltate in replica è inutile, non risponderemo, invece per voi che siete in diretta, per voi che sono le 8:20 del mattino, volendo potete salutarci. In tanti lo avete fatto, moltissimi messaggi come al solito, sono così molto teneri, simpatici, è un piacere ritrovarvi nel nostro computer di destra, però ho questa malattia per la quale resto sempre basito e interessato ai messaggi quelli dissacratori, perché essendo una radio rock, con strumentazione rock, con speaker rock, con registi rock, abbiamo giustamente anche dei radioascoltatori rock, che essendo rocker sono dissacratori di natura. Allora cerchiamo di contestualizzare. Ho appena programmato, per farvi capire il momento in cui è arrivato questo SMS, ho appena programmato Here Comes the Sun dei Beatles, partono i Queen di Bohemian Rhapsody e ricevo questo SMS che recita così: mancavano solo sti froci. Che presumo tra l'altro fosse diretto ai Queen, oppure eravamo noi froci, non lo so, non mi è dato saperlo, ma grazie per averlo scritto. Ringrazio anche Ara, tra i tanti che arrivano, perché mi permette di riprendere una vecchia abitudine che avevamo a pane, burro e rock and roll, ovvero la strombazzata benaugurante. Oggi ha un esame di diritto romano e non sa niente. Sta in una botte di ferro, mister trombetta strombazzato. Vai tranquillo. In un post-scriptum scrive anche: siete meglio di Fiorello e Baldini, grazie. Sì. Piacerebbe guadagnare anche un centesimo, più che essere più bravi di loro, cosa che tra l'altro non è vera. 8 e 22 minuti primi, tra pochissimo il ritorno di una rubrica premiatissima della prima stagione di Pane, Burro, Rock and Roll. Come avremmo potuto lasciarvi senza il test attitudinale? Nuove domande per voi. A voi il compito di dare una giusta risposta e guadagnare punti da collezionare per avere la patente da vero rocker. Esiste? Non esiste? Ah, lo scoprirete, ragazzi. Lo scoprirete tra ben poco. Posso dire questo. Intanto Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Mama told me when I was young, you sat beside me, my only son. Listen closely to what I say, time. Don't live too fast. Troubles will come and they will pass. Go find a woman, yeah, and you'll find love. And don't forget, son, there is someone. Speriamo che le vacanze non abbiano disabituato i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici al vero obiettivo della nostra trasmissione radiofonica. Quasi una missione, DJ Ariel, se posso intervenire. Sì, diventare ricchi e conquistare il mondo. Era questa il piano A? Questo era il piano B. Mi è tornato in mente subito la patente da vero rocker. Devo essere sincero. vero, in effetti questo era il piano A, la patente da autentico rocker. Che si può avere solo cumulando i punticini che regaliamo a Pane, Burro e Rock and Roll. Come regaliamo questi punticini, maestro? Ma solo nel caso in cui gli ascoltatori o le ascoltatrici rispondano esattamente al famoso test attitudinale. Oh, c'era poi anche la possibilità di inviare dei soldi in busta chiusa, ma ne parleremo più avanti. Quasi quasi andrei con la domanda di quest'oggi, allora. Ma sì, andiamo, dai, rompiamo il ghiaccio. Nel corso della puntata romperemo ben altro. Eh beh, può ben dirlo. Forse non tutti sanno che... Inizia così. È un ottimo inizio. Inizia così il test di quest'oggi. Brian Hugh Warner, in arte Marilyn Manson. Ah, è lui. Frequentò in tenera età una scuola di rigida impronta cristiana. Forse per questo che è diventato un mattacchione. Il nostro Brian, tanto per non smentirsi, fece di tutto già in tenera età per farsi espellere da questa scuola cristiana. Ma quale delle tre ipotesi che il maestro Frick vi propone è vera? Ipotesi numero uno. Essendo proibita la vendita di dolci, lui, Marilyn Manson, iniziò a spacciarli, come dire... In termine tecnico, a spacciarli di nascosto. Chissà se è questa quella giusta. Seconda ipotesi. Il nostro Marilyn Manson si arrampicò sul tetto della chiesa della scuola e iniziò a gridare: sono un dio dorato! Che potrebbe essere un ottimo modo per farsi espellere da una scuola cristiana. Ultima ipotesi. Si presentò per una settimana intera vestito da donna. Complimenti anche a questa ipotesi. Quale delle tre, però, avvenne realmente? La risposta, come al solito, ve la diamo dopo. La soluzione a fra poco.